America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bilancio 2010 che ci sta per lasciare. Oggi vorrei dedicare la puntata alla musica. La musica è il soul americano, la musica ci ispira, ci dà dei momenti straordinari e non possiamo negare, credo che nessuno possa negare, non l'ha negato neanche Claudio Baglioni quando l'ho intervistato la settimana scorsa, che la musica americana è importantissima per tutti, lui diceva ha anche un ruolo egemonico, io vorrei dire che ha soprattutto un ruolo emotivo molto importante. Però se dovessi ripercorrere tutte le puntate in cui vi ho parlato di musica americana, per esempio quando c'è il 4th of July, il giorno dell'indipendenza, quando si sentono le marcette. Breaking news. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24. Interrompiamo le nostre trasmissioni per dare la notizia dell'estradizione di Cesare Battisti, il no anzi all'estradizione dato dal presidente brasiliano Lula. La notizia è arrivata poco fa in redazione, è stata annunciata dal ministro degli esteri del Brasile. Per ora non ci sono altri dettagli, vi daremo aggiornamenti nel GR delle 14. Musicali, oppure la settimana scorsa di nuovo vi ho fatto ascoltare alcune delle musiche nella festa di Natale della Casa Bianca, oppure un momento emozionatissimo quando il giorno dedicato ai caduti, il Veterans Day, hanno suonato il silenzio. Ecco, non la finiremmo mai, dovrei fare 5 puntate di queste musiche. Allora ho deciso di dedicare simbolicamente tutte le musiche del 2010 di America 24 ai Beatles e a John Lennon. Credo che sia una scelta dovuta. John Lennon avrebbe compiuto 70 anni, per me in modo particolare la puntata che ho dedicato a quel giorno in cui c'era l'anniversario, la ricorrenza della morte di John Lennon è stata molto sentita, molto particolare, però i Beatles sono spuntati anche in modo alquanto divertente, bizzarro, anomalo durante il viaggio in India che ho fatto con il presidente Obama. Cominciamo proprio da questo viaggio in questa puntata dedicata alla musica e dedicata ai Beatles. America 24, 9 novembre. Federico Rampini, corrispondente degli Stati Uniti, inviato editorialista di Repubblica. Federico, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare di questo viaggio indiano, ma avendo scoperto, rileggendo il tuo libro che hai scritto sull'India, che sei un grande esperto dei Beatles e dei Beatles che sono venuti qua in India, allora raccontaci un po' dell'esperienza indiana dei Beatles. Per scrivere l'esperienza indiana feci molte ricerche anche oltre la mia naturale passione per i Beatles, perché quell'episodio del 68 fu tipico di una lunga serie di innamoramenti dell'Occidente per l'India, che sono stati anche degli innamoramenti fatti di equivoco, di raffigurazione di un'India immaginaria, leggendaria, spesso molto diversa dalla realtà. Per esempio i Beatles finirono nelle mani di un guru che era un imbroglione, un millantatore, un truffatore, un maniaco sessuale che tentava la notte di insidiare Mia Farrow e la sorella Prudence, che era quella a cui poi John Lennon e Paul McCartney intitolarono la canzone Dear Prudence. Qual è stata l'ispirazione indiana nel loro album? Cioè, qual è stata poi la loro produzione? Visto che ci dai anche riferimenti tecnici su canzoni e contenuti. Sì. I Beatles approfittarono del soggiorno in India per studiare molto la musica indiana, ebbero anche dei corsi da Ravi Shankar. Il più influenzato di tutti è George Harrison. George Harrison peraltro aveva già cominciato a studiare sitar con Ravi Shankar prima ancora dei viaggi in India, e la produzione più influenzata dall'India è quella del famoso album bianco, ma George Harrison si possono trovare da Norwegian Wood fino a While My Guitar Gently Weeps, delle forti influenze di Shankar e della musica indiana.

abbiamo subito schiacciato il bottone per scendere, miracolosamente la porta si è aperta a quel punto su un corridoio, abbiamo camminato verso questo corridoio e per combinazione a quel punto abbiamo visto la scena da dentro l'ospedale, dal vivo, dove c'era Yoko Ono, c'era questo figlio piccolo, c'erano gli amici, c'erano alcuni dei fans, e naturalmente siamo stati immediatamente immobilizzati e trascinati fuori. Ma... educatamente e rudemente accompagnati alla porta. Qual è il tuo ricordo oggi? Io mi ricordo che il pezzo che feci all'epoca aveva un titolo ideale: Colpo di pistola ha spezzato il sogno di una generazione. E la cosa che mi ha colpito moltissimo, come a distanza di tanto tempo, l'impatto e la memoria di quell'evento terribile, di quell'assassinio tragico, siano rimasti vivi. Io non so di quanti altri cantanti o di quante altre star si possa pensare a una cosa di questo genere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, Hit Parade 2010, e vi ho proposto 5 canzoni, le più belle dell'anno. Finora ne avete ascoltate 4, ci lasciamo con quella che secondo me è la numero 1, canzone di un duo di Baltimora, Victoria Legrand e Alex Kelly, i Beach House, il nome del loro duo, la canzone Zebra. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì 3 gennaio 2011. L'anno nuovo si avvicina e dunque goodbye and get going! America 24.